Le 11 di sera, nel corridoio. Ah, ecco la sua camera. 47. Allora domani andiamo a Greve, alla festa del vino. Oh, benissimo. Ci vediamo alle 9. Va bene? Alle 9? Yes, va bene. Oh, grazie della cena. È stato un vero piacere. Buonanotte. Buonanotte.